Benvenuti in questo secondo episodio. Come promesso, wow. In realtà registriamo subito dopo, quindi siamo prontissimi. Infatti, con me ci sono Jacopo e Andrea. Ciao. Parliamo di un film vero che comunque ha fatto fare altri soldi a Warner, giusto per, oh no. Tanti. Per rimanere in tema, però stavolta magari un po' più meritati. E parliamo di Sinners. Un film che ci ha consigliato il buon Jacopo. Come mai ci ha consigliato questo film? Ma come, subito così? Il motivo è che siccome sapevo che Andrea non aveva visto Minecraft da solo, serviva un dessert, qualcosa per dare la pillola, e quindi ho detto, vabbè, facciamo doppio episodio e guarda dei Sinners che ti piacerà. E penso di averci azzeccato, visto che sta canticchiando... Sì, una anche se mi avevi diciamo attirato con sì, ho mentito, horror. Ma ho mentito con buone intenzioni, perché avevo detto è un film horror, in realtà non lo è. Cioè, tecnicamente è un film horror, però di fatto non ha niente di horror. Cioè, se vai al cinema è un film horror. Vero. Al botteghino ti dicono questo è un film horror, vallo a vedere, poi però lo vai a vedere e non è un film horror. Pam! Ma che cos'è Sinners, Sala? Dici? Ah, faccio io allora. Ah, aspetta che prendo gli appunti perché ho preso appunti di questo film, non come quelli prima. Non servivano appunti. Infatti vorrei intitolare questa puntata come, poi non so se però ci chiudono definitivamente, solo i vampiri sono bianchi. Non è vero. Però non so se si può fare. Allora, che cos'è un Sinners? Allora, non il tennista, anche se mi è uscito quello su Google quando Jacopo mi ha detto guardati Sinner. E... purtroppo. E... allora, tecnicamente dovrebbe essere un film horror prodotto da Ryan Coogler, che per intenderci, prodotto e diretto da Ryan Coogler, che per intenderci è quello che ha fatto Black Panther 2, 1-2. E Creed, sì. Quello del 2015. Sì. E... anche in questo film si è portato... L'ha anche scritto lui. Ah, sì. In questo film, tra l'altro, si è portato anche molti attori e anche il... Credo che anche Ludwig abbia già lavorato con lui in Black Panther, mi pare. E anche in Creed. Quindi si è preso un po' di cast e di persone. E dicevo che in teoria figura come film horror perché in pratica non è esattamente un film horror, almeno da quello che che ne penso io, non so. Penso anche voi pensiate che non... è più un film fantastico di fatto, con delle con delle diciamo dei piccoli accenni di altri generi. Ci sono parti musicate che sono molto fighe. E ci sono parti più action sul finale, però in pratica quello che rimane è un film fantastico appunto con degli elementi horror che in realtà sono solo la presenza di vampiri. Spoiler. Un po' di parti western per... È un po' di parti western per l'ambientazione in realtà, l'ambientazione sì. È western perché il film è ambientato nel 1932 e vicino al Mississippi, non mi ricordo come si chiama la città, Clarksdale. E dunque, di cosa parla questo film? Questo film parla di due gemelli, anzi in realtà no, facciamo una premessa. L'incipit di questo film è classico film fantastico, sembra... come si chiama? Come si chiamava? Non ragazzo. È Hellblade. No, quello di Guillermo del Toro, vabbè. Blade? No. No, quello il diavolo, no. Lì. Hellboy, grazie. E l'incipit, che Hellboy è un film fantastico, poi vabbè ha elementi mezzo supereroistico, però sì, hanno degli incipit con lo spiegone iniziale, magari tipo videogioco, magari spiegone cartonato, magari spiegone animato, magari spiegone film. In questo caso lui ti dice che in questa ambientazione, che è appunto Mississippi 1932, in questa mitologia esistono persone, performer, la cui abilità è talmente figa che riescono a tirare anime dei morti e anime del futuro, diciamo, riesce a, come, a creare una sorta di perpendicolarità tra passato e futuro, e però sono così fighe che attirano anche il male, tra le altre cose, giusto? Cavolo, io direi a chi ci sta ascoltando, andate a vedere il film se questa cosa vi interessa, perché Sal è riuscito ad evitare tutto il resto del film e concentrarsi su una scena che è la più famosa e la più interessante. Però sì, è vero, questa in realtà è la cosa. No, è l'incipit narrativo in realtà, perché l'inizio ti fa questo mini spiegone in cui ti dice, cioè questo mini spiegone, questa roba in cui ti dice, guarda, in questa ambientazione ci sono, esiste questa meccanica, persone talmente brave a cantare, ballare, che suonare, da insomma essere diciamo attirare, tipo il è una roba della mitologia anche cioè reale, insomma, non è che siano delle leggende folcloristiche voodoo e sta roba sì, qua. Sì, è vero, però detta così è vero, però effettivamente non ci ripensavo che detta così all'inizio non sembra quello che poi è dopo, non so come dire. Ah no, però è effettivamente quel è il motivo per cui succede quello che succede. Sì, sì, no, è vero. Però no, sì, hai ragione, niente. Vai, comunque andate a vedere il film e ci vediamo dopo, ciao. No, vabbè, l'ambientazione in realtà è appunto è western e diciamo i protagonisti sono afroamericani, quindi è il contesto è questo tipo di, cioè diciamo è questo tipo di contesto, quindi afroamericani dopo la prima guerra mondiale, quindi ci sono tutte le dinamiche che sappio che poi Jacopo ci spiegherà bene, Ku Klux Klan, e insomma i lavoratori nei campi, nasce il blues, o è già nato il blues, comunque diciamo è la patria del blues, e, eccetera eccetera, che poi Jacopo ne parlerà, che non so, una sega eccetera. In questa ambientazione ci sono due gemelli, due veterani della prima guerra mondiale, che si chiamano i loro nomignoli. Sentite anche voi il cane fuori fastidioso? Sì, secondo me è il demonio. Quindi la mia performance nel podcast è talmente figa, esatto, che ho attirato. Esatto, che il demonio lei lo sta. Comunque sì, gemelli interpretati da Michael A. Jordan, Jordan, giusto? Sono due persone diverse. Okay. Esatto. Ah, Smoke e Stack e Stack. Che diciamo hanno lavorato a Chicago negli ultimi anni e tornano nella contea. Hanno lavorato, tra virgolette, nel senso che da quello come vengono descritti sono praticamente dei gangster, e, nel senso che hanno diciamo usato soldi rubati per insomma il loro business eccetera eccetera, girano con un carro pieno di armi, insomma belle persone. È una cosa assurda comunque l'effetto che hanno utilizzato per farti sembrare che sono due persone, non so, cioè in alcune scene io me lo scordavo, tipo quando si passano una sigaretta, minchia, è fatto bene. Io in realtà non lo sapevo e quindi per tutto il film ero convinto fossero due persone, e poi però ho realizzato che era una persona. C'è solo un Michael B. Jordan, tra l'altro B e non... Incredibile. Loro tornano in questa cittadina e vogliono... come si dice, inaugurare un loro locale praticamente, un loro locale per afroamericani, per la comunità afroamericana. Quindi vanno a comprare il locale da un bianco, anche un po' testa di cazzo, si capisce subito, però comprano questo capannone, e poi vanno a arruolare quelli che li aiuteranno per questa inaugurazione e allo stesso tempo fare un po' di pubblicità e insomma... e sparge la voce che la sera stessa ci sarà questa inaugurazione. Tutto si svolge in un giorno, mi pare, a parte vabbè il finale. il personaggio più importante che, tra virgolette, arruolano è Sammy, il loro cugino minore, figlio del prete, del predicatore, e bravissimo a suonare la chitarra. E loro lo prendono perché appunto deve suonare per loro, perché gli vogliono bene, suo fratello, il suo cuginetto, eccetera, eccetera. Questo è uno dei protagonisti. Poi ci saranno sarà un altro protagonista maschile, che è quello che suona l'armonica, che adesso non mi ricordo come si chiama, però è interpretato da Delroy Lindo, che è un attore, un caratterista che ha fatto altra roba che io non conosco, tra l'altro. Delta Slim. Chi? Delta Slim, il nome nel film. Ah, ok. E poi ci sono altri personaggi protagonisti femminili. C'è le due ex dei due Michael Jordan. Una interpretata da Hailee Steinfeld, che finalmente ha un ruolo normale, non un ruolo di merda come in Emily Dickinson su Apple TV. E... vabbè, a parte l'interpretazione che ha fatto in Spider-Man di doppiatrice, finalmente ha un ruolo decente. E l'altra è quella strafamosa, che però adesso mi sfugge il nome, che anche nei film Marvel ha fatto quelli di Loki, per esempio, le serie di Loki. Sì, beh, Deadpool e Wolverine. Non so pronunciarlo. Sì. Bunmi Mosaku. Ok, Bunmi Mosaku. Sì, non mi ricordavo come si chiamasse. E, quindi arruolano questi, vanno in questo capannone e poi si svolge la festa. L'unica cosa che noi sappiamo di questa festa, quando cominciamo il film, è una scena finale che è anche la scena iniziale, che è quello che mi ha fatto scrivere a Jacopo. Forse vi stavate chiedendo, vi stavate chiedendo come siamo finiti fin qua. Sì, che vabbè, è la scena del predicatore che fa la messa la mattina dopo e il figlio, quindi Sammy, che apre la porta tutto coperto di sangue con uno squarcio sulla faccia e la chitarra rotta su una mano. E questo è quello che sappiamo della fine e dell'inizio. Non so se dire altro, non so neanche cosa c'è nel trailer perché non ho visto il trailer prima di guardare il film. E basta. Tra l'altro io mi sono perso, ma c'è una scritta dopo questa cosa, Salla? Cioè, dopo sì, che c'è il giorno prima. Ah, sì. Io me la sono persa. Io per tipo 2 minuti... lo so, questa scritta mi sono distratto e non l'ho vista. Per quello io per i primi tipo 5 minuti pensavo, aspetta, ma quella scena... era prima? Cioè, non mi era chiaro se... Vabbè, comunque... Sì, perché è praticamente tutto in 24 ore, però tu vedi già la fine, che poi... Sì, no, è letteralmente la fine del film, di fatto. Poi, vabbè, c'è la scena post-credit, però... non è post-credit, però c'è una scena finale che è importantissima, però in realtà la fine della trama vera e propria è la scena iniziale. Sì. Boh, ditemi. Vogliamo prima fare i commenti senza spoiler? Che... Sì, io non, qui... vabbè, non c'è tanto da spoilerare in generale, poi non so, ripeto, se c'è nel trailer qualcosa, però sì, io eviterei. Direi che ci sono i vampiri, sì. E... scopriamo e basta. Dopo un bel po'. Sì, lo no, scopriamo. Però si sa, cioè effettivamente non è nessuno, che io sappia, nessuno diceva ah, chissà cosa c'è in questo film. Penso che nel marketing ci fosse comunque ci fossero parecchi riferimenti, quindi... Ah, dico spoiler. Un'altra ah, cosa sì. Che è un po' uno spoiler, sì. Non lo so, eccetera. Ci sono i vampiri e finalmente è un cazzo di film in cui ci sono i vampiri e loro non dicono oh mio Dio, cosa sono queste creature? Ma dicono ci sono i vampiri. Esatto. Ah, ok, sono vampiri. No, perché è importante. Tutti i film con gli zombie. Oh, no, cosa succede? Mi mangiano il cervello. Sì, sono zombie. Sì, sì, no, nei trailer c'è vampiri, Andrea. Ok. Non l'ho visto, quindi... Ti ho fregato. Beh, meglio vedere, forse è meglio, cioè, vederlo a scatola chiusa, diciamo. Ti è piaciuto, quindi? Sì, sì, molto. Tralasciando la parte sapio, che, vabbè, quello... cioè, No, no, ma che... trascuriamola, cioè... per il momento. Ma perché? Automatizzato, cioè, perché non capisco... No, no, mi sono concentrato più proprio sulla parte musicale, mia cioè, proprio... impressionato, mi è piaciuto tantissimo anche il mashup di appunto il blues con il folk irlandese. No, vabbè, mi ha proprio stregato. Sì, anche a me è piaciuto tantissimo comunque, anche nelle parti, come dire, meno blues, mettiamola così, più non so, più horror, più... Ma thriller. A proposito di musica, vabbè, la composizione abbiamo citato prima, ma non credo mentre registravamo, è di Ludwig Göransson, che io non conoscevo, in realtà ha vinto 2 Oscar. stronzo qualsiasi dice. Come miglior canzone sonora, una per Black Panther, discutibile, e l'altro come miglior canzone, no, come miglior canzone sonora di Oppenheimer, che tra l'altro non ho visto, quindi forse è per quello che che non conosco. No, la vabbè, cosa strafiga della roba di Mandalorian, ha fatto con Mewie un sacco di roba. Sì, diciamo. No, certo. E la roba incredibile è appunto che vabbè, il genere musicale principale del film è blues. Come diceva Andrea, ci sono degli elementi di altri generi. C'è una parte bellissima in cui lui mischia davvero tanti generi, però li mischia basandoli tutti sulla melodia blues. Ed è stranissima una cosa. Il fatto di mischiare, cioè appunto trasportare anche roba del futuro con la musica, no? Quindi... sì. È veramente strano. È difficile anche da spoilerare perché è un'esperienza sensoriale. Sì. Quindi, però eviterei di dire altro forse per ora. Se qualcuno è interessato a guardarlo per l'ultima volta, andate a guardarlo e basta, smettete di ascoltarci. Ah, non vuoi parlare della parte sapio prima di mandar via la gente? Ah, sì, vabbè. No, dopo non perché lo guardo. Se non potete annoiarvi... è un film sapio travestito da horror. Salla, ma non puoi parlare di quanti soldi ha fatto sprecare Ryan Coogler alla Warner per comprare la macchina cinepresa, le lenti, la pellicola, dopo ne parliamo, per girare con 800 sì. formati diversi. Infatti, vaffanculo, sì, dopo ne parliamo anche di sta stronzata, però vabbè. Però è andato bene il film, poi li ha rifatti. Vabbè, quello lo diciamo dopo la parte sapio. No, però quello che direi ora è... Vabbè, per la parte sapio. Sì, no, senza spoiler, cosa posso dire? Sto film per me vale 40 Black Panther, mi spiace. Cioè, nel senso, a me Black Panther capisco che... abbia un'importanza, che comunque Ryan Coogler ci ha messo tantissimo impegno pure lì, ma questo film funziona molto meglio, è molto più bello da vedere, è molto più, scorre molto meglio, è più bello anche come temi sono esplorati comunque in maniera chiara, perché comunque non è che Black Panther era super, come dire, esplicito, mettiamola così, in quello che stava cercando di dire. Pure questo è super esplicito. Sì. Però c'ha miliardi di strati in più, secondo me. No, miliardi no. Tre. Almeno 3 strati in più rispetto a Black Panther. Però senza spoilerare troppo non so cosa posso dire. Cioè, comunque... in generale, voglio... perché... I temi affrontati sono, così siete pronti alla parte sapio e potete ignorarla e continuare sul film. Ovviamente razzismo, declinato in comunque l'era di Jim Crow, il fatto che comunque il Ku Klux Klan c'è sempre stato e ci sarà ancora per un bel po' purtroppo in America. E anche volta, se nel film dicono non c'è più il Ku Klux Klan. Ogni volta dicono che non c'è più, come lo stanno dicendo ora. Infatti tutti quanti eravamo convinti nel 2008 che l'America fosse ormai post-razziale, ma non è stato così, solo perché il presidente era bello abbronzato, come diceva il nostro caro amico Silvio. Però mm-hmm. la questione centrale più che quella, secondo me, cioè, è vero quello che dice Salla, solo i bianchi sono vampiri, ma alla fine non è vero, che questo è anche il bello, cioè è che viene declinata in tantissime sfaccettature anche di razzismo verso gli irlandesi, perché sì, le tra canzoni... Essere vampiri non è neanche il problema in questo caso, perché poi i pezzi esatto. di merda sono comunque non vampiri. Esatto, c'è anche il fatto di, come dire, di riconoscere il male di dov'è e di come si manifesta anche, diciamo, in alcune circostanze, ripeto, che non voglio spoilerare, ma è proprio un insieme di piccole e grandi cose che andavano e vanno a formare alla fine la vita di una persona sistematicamente discriminata. E voglio spoilerare una scena che mi è rimasta molto impressa, forse anche a voi, all'inizio, che è proprio all'inizio del film, quindi non dice un cazzo, quando c'è, mi pare, Smoke, quello col cappello blu, mi pare, che mentre Stark sta facendo cose, vabbè, non ricordo, sta contrattando con la tizia per fornitura di alcol o altre cose di contrabbando per il locale, no, lui sta fuori. Non so se... Vabbè, comunque c'è lui che sta fuori, non mi ricordo se Smoke. Penso fosse Smoke, ma non sono sicuro. E parla con una ragazza. Sì, sì. E le dice... guardami il camion, nel senso, qui dentro ci sono tante cose, stai attenta che nessuno ci vada, insomma, a curiosare. E lei dice, ah sì sì, va bene. E lui dice, ah, ti dice minuto, ora, non mi ricordo, forse minuto. E lei dice, va bene. E lui dice, no, devi contrattare. E le spiega, diciamo, come contrattare, in un certo senso. E lì, secondo me, c'è una cosa centrale del film, che è il rapporto, come dire, odio-amore, comunque conflittuale, con quelli che sono dei gangster, perché sono dei gangster, e si vede come reagiscono... Cioè, anche lei reagisce all'inizio quando lui dice il suo nome a lei. Vedi che reagisce tipo, oh mio Dio, sono i gemelli, bla bla, Smokestack. E poi però comunque, nonostante siano dei gangster, diciamo, cercano di mettere in piedi una comunità, di ridare qualcosa indietro. Quindi, non lo so, sono tante tante cose in questo film, e tante storie che vengono sia dall'attualità, dagli anni 90, dagli ultimi anni, sia da storie che, come dice il regista, se c'è un whisky abbastanza freddo, vengono fuori dai nonni, no? Nel senso, storie del Mississippi, storie di quella era lì. Però non vorrei dire altro, perché il resto è tutto molto incastrato con la trama, mettiamola così, con quello che succede nella storia, quindi eviterei di entrare troppo nel dettaglio. Questa è la parte sapio, ignorate, andate a vedere il film, ciao. Basta. Talla. Quanti soldi hanno buttato per girarlo? Non lo so quanto è costato, tu lo sai? No, dico... Allora, è costato tipo 100 milioni, però dico, secondo te non il fatto di cambiare, di cambiare formato di pellicola, cambiare... cioè, se ho capito bene, non hanno solo cambiato, hanno girato il film due volte. Cosa? Cioè, se ho capito bene, loro usano due tipi di formato all'interno del film, combinati insieme per fare due tipi di... cioè, per fare dare un'immersività maggiore al film stesso. Quindi loro hanno praticamente... Vabbè, il regista e il direttore della fotografia, non so di cosa siano fatti, però hanno deciso di usare due formati mentre registravano, tutte e due a pellicola, perché sai, ormai, no, il digitale in questo momento non è così bello, è più bella la pellicola. Uno è l'IMAX, che è il 70 mm, e uno, no scusa, uno è l'IMAX, che è il no scusa, usano tutte e due, ho detto una cazzata, la pellicola è sempre 70 mm, 65-70 mm. le differenze nel taglio che viene dato al alla, quindi il formato che come viene girato è uno è un 65 mm, l'altro è un 70 mm. Uno è un Ultra Panavision, quindi è un è il film The Hateful Eight, per intenderci. Non so se avete presente. In cos'è 2,76 su 1, cioè è super orizzontale. E l'altro è l'IMAX classico, che è quello più schiacciato. In teoria tu potresti combinarli per avere un cioè, secondo la loro idea, avere un film molto più immersivo, cioè molto più, diciamo, ti dovrebbe mostrare molto di più il panorama, cioè il modo panoramico, diciamo, l'effetto schiacciato sui lati. In pratica questo succede solo se siete andati in uno dei tipo quattro film al mondo che hanno il 4DX IMAX sto cazzo. Credo ci sia un cinema a Londra, uno e un paio negli Stati Uniti, sono tipo 10, credo, in tutto il mondo. E per noi comuni mortali questo vuol dire che lui ha avuto più flessibilità nel taglio che ha dato al film, quindi gli ha dato un formato un po' più particolare e poteva giocarsi meglio il formato. Se invece ci sono dei puristi della pellicola, dell'analogico e dei formati e della qualità, prendano un aereo, vadano a Londra e guardino questa cazzo di film nel formato in cui... Non lo so, mi sembra una di quelle cagate tipo alla Nolan, però vabbè, lo so, cioè, fondamentalmente se non fosse matto non avrebbe neanche fatto questo film. Probabilmente sì. A quanto pare allora, Kodak diciamo... gli ha fatto una versione apposta per lui. Sì, perché il 65 mm non è usata, cioè non è una pellicola commercializzata, deve essere fatta apposta. E quindi, certo. Perché mentre quell'altro è il... diciamo è il large format normale, quindi 70 mm, quello usato da registi pazzi, tipo appunto The Hateful Eight, Nolan. Ho detto. Ah, sì. Nolan però ha altri problemi, lasciamo stare. E... cioè Nolan, la cosa che mi dà fastidio meno di questo regista rispetto a Nolan, perché questo è il punto, tutti e due si sono ostinati a girare in solo a pellicola in analogico. Questo qui ha semplicemente fatto un lavoro, è un po' come quello di The Lighthouse, no? Ha fatto questo lavoro incredibile di fotografia per dire che possono farlo. No, dai, The Lighthouse non era così. Ti ricordi che ha adattato delle vecchie lenti, proiettori apposta per fare, ha creato questo Frankenstein tra il corpo macchina e la lente per fare. Nolan invece ha fatto dichiarazioni che non hanno senso, cioè lui ha dichiarato che se non giri a pellicola sei un coglione, e infatti tant'è che persino Tarantino gli ha detto guarda, insomma, cioè, vediamo, non sono troppo d'accordo. Comunque sì, la particolarità di questo film è questo formato ibrido, e che dovrebbe garantire un rapporto di immagine leggermente diverso da come ci aspettiamo. Non so se mi sono spiegato bene. Sì. Che però è apprezzabile al 100% solo in almeno un cinema con IMAX. Però quello che ti chiedo io è, non ti cambia pure altre cose? C'è anche su una TV in digitale, quindi il fatto di poter cambiare l'aspect ratio quando ti pare e comunque avere una, come posso dire, una resa particolare, perché comunque ti cambia delle cose, cioè tipo ti cambia, che ne so, la profondità di queste cose qua, cioè ti, no, ti la profondità di campo non la cambia perché la pellicola è la stessa, cioè la, diciamo, la, quello dipende dal tipo di lente che usi. La cosa che a me non piace di tutto questo discorso è che questo, questa cosa di poter cambiare il formato, l'aspect ratio, il rapporto tra altezza e larghezza, è una roba che in realtà è normale nel medio formato. cioè tu hai il medio formato che è questo questa sensore o questa pellicola, in questo caso molto grande, e quando tu registri decidi poi come fare il taglio su questa pellicola in modo tale che hai molta flessibilità, perché è così grande che tu puoi tagliarlo in verticale, puoi tagliarlo in orizzontale, puoi schiacciarlo in 70 mm eccetera. Il problema che ha lui è che lo fa a pellicola, quindi facendo la pellicola quello che deve fare è farsi fare una pellicola doc, e però appunto questa cosa qua verrà apprezzata poi, cioè il rapporto 1:45 per 1 non lo puoi riprodurre ovunque, ma ci sono una lista di cinema in cui puoi vedere questa roba. Ho capito. Quello che puoi vedere tu al massimo è la qualità del 70 mm, cioè l'IMAX. Però quello lo potevi vedere anche in digitale, cioè questo che... Sì, non lo so, cioè da come ne parla lui... Cioè, c'è un video che ha fatto per Kodak dove parla perché ha fatto quella scelta. E ovviamente se fai un video per Kodak non dici che la pellicola fa schifo, però se ha fatto quella scelta... Non lo so, mi sembra che ne parli più in termini di resa finale, però per me... No, quello che voglio dire io è che... Allora, adesso è difficile farlo in podcast, però fate conto che avete davanti a voi un monitor, ad esempio quello del cellulare. Lo mettete in orizzontale, ok, ci siamo. Fate conto che questo è il rapporto normale che voi vedete sulla TV. Il rapporto che lui ha registrato è questo, e poi questo, ma leggermente più alto, cioè leggermente più largo. Quindi è come se voi vedeste un pezzettino di film in più sopra il cellulare e un pezzettino di film in più sotto il cellulare. Quindi sì, è un guadagno, perché è un rapporto diverso. Quello che dico io è che in digitale lo potevi fare senza romperti il cazzo con le pellicole diverse. Sì. Certo, ma lui quando parla... Quando parla della pellicola intendo, non quando parla, perché lui dice è equivalente la dimensione del sensore quando cattura un'immagine rispetto alla dimensione di una pellicola. Cioè lui dice digitale o analogico ha gli stessi effetti, diciamo, sull'immagine finale, che è quello che ti dicevo prima, no? Solo dalla lente che hai davanti. Lui ne parlava proprio in termini, non so perché, diceva che comunque indipendentemente dalla lente, se hai un sensore più grande hai meno, diciamo, intervallo di fuoco, si chiama. Sì, no, è la verità, ma se tu hai un sensore digitale, quello che voglio dirti è che i sensori digitali di quella grandezza hanno già la parte sopra e la parte sotto, poi tu la tagli in digitale perché gli dai il rapporto, quindi sì, è vero, lui lo guadagnerà in pellicola. Ma se lui non avesse usato la pellicola avrebbe potuto fare normalmente. Esatto, è questo il punto, cioè che lui dice evidentemente ha scelto la pellicola perché ha un altro aspetto ancora che non so qual è a questo punto, cioè forse no, è solamente quel friccicorio, no. Non lo so. No, è il fatto che è la non la latana, cioè lui l'ha usato perché ti dà Allora, boh, vabbè. E sai perché io scatto a pellicola? Ah, no, perché? Cioè, io scatto in digitale, scatto anche a pellicola. La cosa bella della pellicola, in realtà, oltre che a quello che ti guarda la foto e dice sì, oh mio Dio, la pellicola, vedo proprio la grana, che bello che puoi fare in digitale. La cosa bella della pellicola è il processo. Cioè, quello che voglio dire è che le seghe se la sono fatte lui, Kodak, il direttore della fotografia, e basta. Cioè loro hanno goduto nel registrare in IMAX 70 mm, IMAX 65 e IMAX digitale. Cioè loro hanno proprio goduto nel farlo. Però tu, che lo guardi, avresti avuto la stessa cosa se loro avessero girato con normale, cioè normale, per l'amor di Dio, costa comunque migliaia e migliaia di euro. Però digitale, capito? Okay. Vabbè, chiudiamo questo piccolo masturbazione sulle pellicole e il mio punto di vista. Se c'è qualche fotografo o videomaker in ascolto che vuole dirmi la sua opinione, super scrivermi. Esatto. Ho capito. Comunque, vabbè, questo in realtà te lo volevo chiedere. A quanto pare, non ho capito bene cosa è successo, ma a quanto pare è stato difficile farlo uscire questo film. Cioè, hanno speso tantissimi soldi sul set, probabilmente per questa scelta. Cioè, per anche sì, per sì, l'hanno dovuto, per fare... credo abbiano dovuto anche rigirare alcune scene per, sì, per adattarlo. E la cosa è stata strana perché questo film è uno dei pochi che io sappia, di almeno con questo budget, che sono stati filmati per la distribuzione con questi termini. Cioè, da quello che ricordo io, il regista, cioè Ryan Coogler, che l'ha anche scritto, prodotto, eccetera, ha cominciato a guadagnarci subito, che è una cosa rara, perché di solito prima deve rientrare di chi te lo finanzia. Mm-hmm. Invece lui ha cominciato subito a guadagnarci in percentuale sui costi dei biglietti. E lui ha i diritti, se non sbaglio. Cioè lui ha tipo, vabbè, ovviamente nessuna influenza sulla parte, diciamo, di montaggio da Warner Brothers, cose così. Mm-hmm. Ma lui proprio c'ha i diritti del film, se non sbaglio, magari mi sbaglio, però in teoria okay. Se lui dovesse fare uno spin-off, un sequel, non deve farlo per forza con Warner Brothers, non è una cosa che Warner Brothers può dare a qualcun altro, magari mi sbaglio, però è assurda sta cosa. È assurda, cioè... però secondo me ha anche guadagnato un sacco, cioè si vede che comunque il lavoro autoriale è... probabilmente come lo voleva far lui, cioè non ha avuto troppe pressioni, ha fatto il cazzo che gli pareva, detto in parole povere, e questo ha guadagnato certo. in bellezza, perché alla fine il film è un bel film. Diciamo che è strano ma bello, cioè mi piace come non è, anzi è una gran figata. È solo che mi chiedo, cazzo, come fai a non renderti conto che è una bomba sto film. Oddio, se viene da me uno mi chiede 80 milioni di dollari così a secco, posso capire che è un po'... Però, boh... comunque, vabbè, chiuso il discorso... Sì, tra l'altro la Warner con sta scusa ha fatto un botto di soldi quest'anno. Perché anche sì, questo film ha fatto guadagnare un sacco. Sì, ultimamente gli horror vanno molto, comunque, o... quelli che si spacciano come horror, almeno. Vanno un sacco di moda. Comunque, vabbè. Superman è uscito quest'anno, no? Sì. Ed è sempre Warner. Sì. Purtroppo sì. Però anche quello ha incassato un bel po'. Vabbè. Volevate comunque fare spoiler, però? Sì. Andrea, sì. Parliamone. Cosa? La scena che dicevi prima della musica, la scena è bellissimo. Vi ricordate Cloud Atlas? Oddio, okay. Sì. Questa fatto bene, diciamo, questa scena racchiude tutto, non lo so, mi ha dato quelle vibes quando c'è appunto il racconto di questa musica che collega tutto, questa collega appunto tutta la musica etnica dal... sia musica che danza, ci sono i danzatori appunto sia africani, cinesi, questa musica hip hop, rock, c'è tutto dentro, è bellissimo, fatto bene. Tu hai riconosciuto qualcuno? Di quella gente, cioè, perché mi sono chiesto, non è che qualcuno di questi è un artista reale, tipo stanno mostrando tipo Blues Brothers? Oddio, no, non c'ho una Blues Brothersata. Voi avete riconosciuto qualcuno? No. Ah, ok. Sì. Ma lui è bravo davvero a suonare, il protagonista? Sì. Cioè, Sammy, dici? Sì. Sammy, sì, lui è un artista, è un cantante, mi sa. Minchia, perché anche a cantare è abbastanza incredibile. Lui ha bella, bella voce, sì, davvero. Tra l'altro lui da vecchio pure è un un musicista blues vero, Buddy Guy si chiama. Tra l'altro, oh no, spoiler, non muore. Solo di vecchiaia. Siamo negli spoiler. Tra l'altro, se non sbaglio, il tizio che faceva il padre di Sammy, il coso, come si chiama? Predicatore. Sacerdote, il predicatore. Mi sa che suo padre era un predicatore, se non ho capito male. Era praticamente lo stesso personaggio. No, vabbè, questo film istantaneamente è entrato nel... Sei saltato, ti abbiamo perso. È morto Jacopo, no? Pronto? Hai saltato. Oh no, ho saltato. Che entra in e poi non si sa, è lasciato... Questo film mi è entrato nel cuore. Mi è entrato nel cuore. Ah, cuore, ok. No, è figo perché... ti prende anche all'inizio, cioè il ritmo all'inizio è lento, però c'ha questo arpeggio, questa musica, questa roba, e ti coinvolge anche subito, proprio da zero, anche se non succede un cazzo all'inizio. Sì, vero. E che è abbastanza strano per me. Ma è pensato ai tagli. Hai sofferto per la durata del film. Sì, un pochetto sì, ma l'ho guardato in tre puntate questo film. Tre? Ok. La prima ho guardato fino a... Aspetta, adesso lo dico. All'inizio ho guardato fino a quando non vanno nella città e il tizio spara nel culo all'altro. Che bello. Poi ho guardato mi fino sparato a... nel culo. Stavo meglio prima che mi sparassi nel culo. Esatto. Poi ho guardato fino ai vampiri, quindi in realtà abbastanza avanti, cioè no, a metà, e poi ho guardato tutta l'altra metà in una tirata. Ok. Però devo dire che la parte iniziale mi è piaciuta molto di più della parte finale. Anche se la parte finale è figa, cioè quelle trashate, misto tra trash di film horror e film serio, in cui tipo mangiano l'aglio e poi fanno ma questo non è sangue. Questo scene un po' così a cazzo. Era sì, tipo vino, liquore, che cazzo era, non mi ricordo. Sì, sembrava tipo Scream, com'è che si chiamavano? Scary Movie. Ah sì, che poi perché effettivamente poi ammazzano, non volendo ammazzano il tipo perché lo buttano fuori. Sì. C'è tutta la gag, tipo mangia l'aglio, ho bevuto troppo. E quindi fanno tutte queste gag divertenti e sì, bello. Sì, sì. Oppure il tizio che squarta quell'altro e lui che lo guarda e fa no, io non sono un vampiro. Ma sì, sta mangiando, ha fame. No, c'è un misto tra questo trash e questo action. Però ci sta, dai. Cioè comunque rimane serio, più o meno. Più o meno. Bimbo, Robin, clean. Non so... Boh, no, guardatelo in casa. Guardatelo. Prima i dettagli, tra l'altro, c'è cioè, il dettaglio di lui che sente la birra che si apre. Non so se ci avete fatto caso, c'è una scena dove lui apre una birra davanti al tizio, come cazzo si chiama quello? Sì, Delta sì, Slim. Il tizio con l'armonica, sì. E lui fa, cioè c'è tipo un sussulto, no, di sorpresa. Perché effettivamente la birra era una cosa molto rara nel proibizionismo, perché era una cosa che si rovina abbastanza in fretta rispetto ad altri liquori. Giustamente. Sì. E era abbastanza rispetto al resto. E più tutto il disseminare indizi sul fatto che loro stavano rubando sta roba, no? Birra irlandese, un'altra roba italiana, vino italiano, cose così. E che si stavano facendo dei nemici. Il dettaglio, questa cosa l'ho beccata subito, che sarebbe stata lei, il dettaglio che Mary, sì, l'ex di Stack, che sarebbe stata lei a infettare, diciamo, a infiltrarsi poi, perché... È bianca. Esatto, no, perché viene insultata fin da subito, cioè quasi la prima cosa che le dicono. È che è white passing, cioè che questa qua sembra bianca, ma in realtà sì. come si dice, meticcia, insomma, mix. Boh, non lo so, questa è, diciamo, una parte un po', perché lei dice, sì, è una parte, sì, chiaramente, chiaramente, però è la sua storia anche, no? Cioè, nel senso, è la storia di tantissime persone, e se vai oltre i primi cinque, diciamo, secondi in cui dici, ma non è vero, non mi sembra. Esatto. In realtà lei lo è, cioè nel senso, e sì, molte storia, persone lo sono, e nella storia, no, anche lei, nella vita reale. Lei... Sì, ma nella vita reale è sbiadita. Molto sbiadita, però dico, viene ostracizzata, viene trattata diversamente, e in entrambi i casi, positivi o negativi, è quello che la rende, come dire... Cioè, è un layer in più, come dire, di quello che succede nella storia, che poi lei viene, è quella che dice, ah no, ma ci vado a parlare io con i bianchi, che, capito? Mi infiltro io, che ti servono i soldi, no? E... Tutta la parte con... I troppellini, Stark, sì? E Mary, mi sono piaciuti molto. Sì. Anche gli altri due. La parte carini. Romance, dicevo anche, intendo, è fatto anche esatto, anche perché c'è un anche... qualcosa di romance come genere. Anche Annie e Smoke, sì. Anche Annie e Smoke è figo. Annie e Smoke sono, boh, penso la coppia perfetta. Allora, scena di sesso, forse potevano venderla un po' meglio, però ci stava. Ci sono scene di sesso molto meno giustificate, ma loro come coppia... sono incredibili, cioè lei che dice, ah, sono dei cazzo di vampiri, ho capito, cioè nel giro di 30 secondi capisce tutto e fa tipo il piano, e loro due che secondo me in un certo senso si complimentano, cioè riescono comunque a creare una situazione più... Sai quando nei film horror vedi due persone che non capiscono un cazzo e fanno tutte le scelte sbagliate, e dici, questi due vengono a morire, loro no. In questo, cioè, loro finalmente non c'è. Ma infatti comunque lui si vede che quando vede il fratello che gli dice non posso farlo senza di te, c'ha un attimo di ah, però dai, potrei diventare anch'io vampiro, non lo so, fanno errori comunque giustificabili, che è sempre bello. Sì, anche la motivazione con cui fanno entrare i vampiri ci sta. Cioè il fatto che la tizia cinese abbia paura per la figlia. Cioè non è a cazzo di cane tipo fai un gioco di parole, ah ok puoi entrare. No, è cioè sono personaggi reali, tra virgolette, con le loro motivazioni. Per essere un film horror comunque è insolita come cosa. Sì, anche loro che subito si rendono conto che Conrad sta dicendo, chiedendo il permesso, mm-hmm. oppure... No, vabbè, piena di ste cose. C'è c'è una scena dove Delta Slim sta dicendo, non mi ricordo, sta parlando di schiavi nei campi. Ah, sì, visto, ok. E fa tipo un grugnito, fa tipo un, non so, fa un suono con la bocca, e poi il suono diventa una canzone, si mette a cantare. Quella scena, cioè già quella scena è bellissima come musica, ma poi diventa tutto il film, cioè tutto il film è questo, e alla fine a me ha commosso la scena finale, spoiler, nel 94. Anche a me, sai, è incredibile. A me mi ha commosso, ma mi ha commosso non lui, cioè io mi aspettavo al massimo che mi commuovesse Sammy. Mi ha commosso il cazzo di vampiro. Cioè, anche a me. Perché anche nelle scene quelle di lotta, tu comunque vedi Mary da vampira che comunque urla e si dispera perché è morta Annie. Poi vedi anche lui, anche Stack, che non vuole uccidere il fratello. Cioè vedi che comunque loro sono rimasti più o meno. Sì, hanno un'anima, come dice nel film. Esatto. E quindi capisci che non è come al solito, no? Che i vampiri sono... I vampiri sono quelli che discriminano, no? Perché di solito c'è questo dualismo: o il vampiro è oh mio Dio, poverino, sono un vampiro, tutti mi vogliono uccidere, no? Devo nascondermi perché brillo al sole, oppure il vampiro è il cacciatore e il predatore sessuale. E qui è bello perché è più complicato, è più è comunque negativo perché è un'assimilazione, no? Comunque ti perdi un po', c'è tutta la scena dove quello parla thailandese, non mi ricordo, cinese. Cinese. Il tizio irlandese parla cinese. Però è complicato appunto perché alla fine lui dice sì, è stata il giorno più bello della mia vita finché non è stato il giorno peggiore, e io stavo in lacrime lì quando parla dell'ultimo tramonto, l'ultima volta che ha abbracciato tutto. Che ha visto il sole, ha visto il fratello. Sì, no, vabbè, bellissimo. Ed è bello anche perché capisci che non sta parlando solamente di quello di cui sta parlando nel film, non so come dire, cioè è una relazione complicata proprio con quei momenti passati in cui eri più libero ma meno libero. Eri più libero in quel momento, eri meno libero magari sotto altri punti di vista rispetto a ora che sei più libero di fare altre cose, più libero di vestirti con quei maglioni del cazzo che c'ha il tizio, ma meno libero di vedere il sole, che è proprio la condizione nostra attualmente, scusate. Troppo sapio, dicevi Salvo. Di nuovo sapio. No, volevo chiedervi un'altra cosa. Questo film ha vinto un sacco di premi. Qualche Oscar lo prende? Sì. Cosa? Perché sì. Perché è un film su razzismo, quindi Hollywood dice, ah sì, bravo, razzismo, è vero, razzismo brutto. Secondo voi? Vabbè, spero che non sia per questo, ma perché? Cioè, comunque. Best Picture avrà sicuramente la nomination, secondo me. Secondo me anche come miglior film. Sì. Secondo me anche come miglior attore Michael Brzezinski. E io mi giocherei anche una colonna sonora. Forse sì. Sì, colonna sonora più probabile che miglior attore. Colonna sonora non lo so, cioè perché alla fine non è originale, cioè so, comunque, però... Allora, miglior musica? Com'è che si chiama? Miglior... No, non c'è miglior musica, ci sono miglior colonna sonora. Dici che non è... Secondo me c'è comunque un bel po' di roba. Dici che non ha fatto niente di originale? Cioè, quelle che canta... tutti gli arrangiamenti... Tutti le sì, gli arrangiamenti sì, magari, forse... Cioè, il fatto che loro cantino tipo la stessa canzone due volte, ma la seconda volta vorresti... Cioè, ti stai cagando sotto. Nel senso, a Pix for Robin Clean la cantano la prima volta e già ti caghi sotto. La seconda volta ti caghi sotto ancora di più. Poi c'è quel pezzo dove cantano quella canzone irlandese... famosa, tutti in cerchio, vabbè. Così. Sono tutti adattamenti, Andrea, cioè quella roba non è che secondo me qualcuno ce l'ha sotto. Boh. Cioè, ah, dici? Vabbè, The Rocky Road to Dublin, vabbè, quella l'hanno... Quella, cioè, diciamo che ce l'hanno... Ma tu dici che gli arrangiamenti blues sono tutte canzoni scritte? Come alcune sono originali. Tipo quella in macchina? A Light to You forse è originale, effettivamente. A Light to You è quella che fa, appunto, quella che inizia a fa lui, che suona lui alla serata, alla festa, che poi diventa appunto mistica la canzone con le robe. Quella lì penso sia originale. Secondo me potrebbe giocarsela anche miglior sceneggiatura non originale. No, miglior sceneggiatura originale. Ma è un film che piace agli Oscar. Sì, anche secondo me. Forse per ragioni sbagliate, un po' sti cazzi. Cioè... Vabbè, sì, un culo. Ah, non abbiamo parlato di una cosa, Sal. Questo film, a quanto pare, ha usato dei costumi che dovevano essere usati per i film di Blade, che ancora non esiste. Non ci credo! Sì. Che non esisterà mai, per come sta andando. Che probabilmente sì. Che la famosa frase di Wesley, se non esiste un altro Blade, sta diventando non più di un Blade, ma è un no, Blade in ogni cosa. Volevo dirvi un'altra cosa, parlavamo prima di Oscar, di premi, di cose, di che stiamo parlando? Ma che ne so, del finale. Madonna, io mi sono sperato il finale quello, cioè, allora, io per qualche motivo avevo in testa che nel finale loro due prendevano dei detonatori e sparavano al Ku Klux Klan, invece alla fine è solo lui, perché solo lui è sopravvissuto. Quindi sì, me lo sono sperato, ma male. Cose. Minchia, che bel finale, però pure quello. Sì, lui muore un po' da stronzo, se posso essere sincero. Cioè, è sopravvissuto tutta la notte, poi una ferita di cazzo al coso. Oh, però ci sta, cioè, è un po'... Anche lì è tutto un po' collegato alla Prima Guerra Mondiale. Al fatto del totem, del perché era ancora vivo in un certo senso, del qual era il significato del totem. Non lo so, non mi è dispiaciuta quella scena, un po' troppo violenza. Una merdaccia. Sì. No, è carina anche la cosa che vede, diciamo, anche lui riesce a vedere oltre il velo mentre sta morendo. È carina. Come vabbè, classica epica quella, cioè classica roba da romanzo epico. Però ci sta con la lore del film, con l'ambientazione, la mitologia che c'è nel film. Sì. Sì, anche piace anche... Lei prevede la sua morte, fa un po' ridere, però vabbè, fa parte tutto della mitologia. Sì. Mi è piaciuto però che abbiano deciso di non... con la religione. Nel senso, di solito i vampiri, se tu gli fai vedere un crocifisso... Sì. Invece questo film mi è piaciuto che il tizio dice... Ah, bello questa canzone, questa preghiera. Mi ricorda quando venivano sì, a rubare i campi a mio padre. Ma infatti quando gli butta l'acqua io pensavo fosse acqua santa, invece no, era tipo acqua e aglio. Esatto, esatto. Bravissimo. Io prima di andare a dormire vi mando un video carinissimo. Lo mandi anche ai nostri ascoltatori. Esatto, riguarda il film ovviamente. Ah, Miles Caton. L'attore e Ludwig, ovviamente, che suonano insieme live. Adesso va di moda sta roba. Questa qua. Canzone. Ah, la canzone. Con i videogiochi. E... Vai, Salla, metti questa canzone nel podcast, così te lo distruggono. No, vabbè, ma non credo se ne accorgerà nessuno. Vabbè, se volete su YouTube, comunque c'è una performance di... Miles Caton e Ludwig Göransson, quello svedese, come cazzo si chiama. E c'è anche la tizia, vedo. Lei è la tipa, non è la tipa che canta. Quella, la ma non canta. Sì, ma non canta. È Berlin. Ah, ma che poi il gruppo si chiama l'ha chiamato Berlin? Grandissimo. Alla fine. ci avete fatto caso? No, non ci avevo fatto caso. Il gruppo di lui... è dedicato alla tizia sposata che lui si è trombato. Esatto. Tutto giusto. Cosa? Va bene. Dai, grazie di aver fatto, di aver registrato con me. Grazie di aver ascoltato la puntata. Questo podcast nuovo, questa stagione, almeno due episodi. Chissà se ne avrà un terzo. Ve lo diremo la prossima settimana. Ciao. Ciao. Ciao.